solo, senza alcun rimpianto. Cado mentre precipito in apnea e guardo ciò che il rancore m'ha fatto e penso sempre più stanco in una stanza a luci soffuse che mi timoriscono fin dentro la mente, cercando senza sosta un modo per abbandonare questa follia, lasciandomi alle spalle affanni ed agonie, sterili momenti, paranoie e pazzie. Questo non è uno sbaglio, non è neanche un abbaglio. Questo è ciò che penso, questo è ciò che sono. La paranoia è dentro me, scivola dentro come se il traguardo fosse la soluzione, l'espiazione del peccato che il marchio ha lasciato su di me, un segno indelebile che mai si cancellerà. Le voci senza senso, un grido dentro forte e amaro di un'esistenza sola e cupa, né scelta né voluta, cancellando ogni verso di una vita senza poesia, passata in piena depressione, ho una sola soluzione, lasciandomi alle spalle affanni ed agonie, sterili momenti, non è neanche un abbaglio. Questo è ciò che penso, questo è ciò che sono. La paranoia fugge da me, scivola via come se il traguardo fosse ormai raggiunto. La confusione del peccato che il marchio ha lasciato su di me, un segno indelebile che ora è indifferente.